La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e da Radio 24 qui a Montecitorio. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta e dalla redazione di Radio 24 qui alla Camera. E allora partiamo subito con le parole di Beppe Grillo, appena arrivato proprio qui alla Camera, dove sta incontrando i suoi parlamentari. Sentiamo. Un mostro, no, la prima volta mi vedere gustare questi momenti che potrò ricordare tutta la vita, entrare dalle... Sul porto. Guarda, adesso abbi pazienza, se hai già detto tutto, non lo so, sono cose, sono tragedie. Siamo già qua, che è già una tragedia questa, vogliamo aggiungercene un'altra, aspettiamo una alla volta. Ma adesso fammi capire dove sono, poi ti dico come mi sento. Ecco, e questo era proprio Beppe Grillo. Ringraziamo anzi la collega Felicia Giudice di Public Policy che l'ha aspettato mentre noi stavamo su ai gruppi aspettandolo pure noi, e sappiamo che sta incontrando i suoi, e abbiamo sentito prima delle reprimende che ci racconterai Vincenzo, che sta facendo il leader del Movimento 5 Stelle, due deputati 5 Stelle come Daniele Del Grosso e Sebastiano Barbati. Sentiamo cosa ci hanno detto mentre aspettavamo Beppe Grillo. No, vabbè, noi ci incontriamo di solito una volta al mese, quindi però è la normalità. La normalità è l'incontro, però il fatto che lui arrivi qui? Beh, vabbè, ci mancherebbe, poi d'altronde lui risulta come capo politico del nostro gruppo, quindi è ovvio che deve essere così. Ma gli avete fatto un permesso speciale? No, assolutamente, entrerà direttamente nel palazzo dei gruppi, quindi. Entra come un qualunque collaboratore con un deputato, no? Non avete paura che vi sgriderà un pochino per la faccenda diaria? Ma assolutamente, ma quale sgridate? Ma no, assolutamente. No. È una persona normalissima, si discute, si chiacchiera, si fanno progetti su come proseguire, insomma ci sta tutta una serie di cose da portare avanti che assolutamente richiede la calma più assoluta. Ma parlerete però della diaria? Può darsi di sì, è uno dei tanti argomenti. Vito Crimi, Laura Castelli e Roberto Fico hanno ben spiegato con un paio di video qual è la posizione, abbiamo un documento firmato per cui insomma non abbiamo null'altro da aggiungere, quindi... Quindi siete tranquilli, no? Assolutamente sì, assolutamente. Che cosa, qual è lo schema? È un incontro politico oppure ci sono dei provvedimenti che lui vuole, che voi portiate all'esame? No, sarà un incontro normalissimo, come di quelli che già abbiamo fatto d'altronde, quindi niente di particolare. Anzi, è bene che ci siano perché, insomma, così si discute di molte cose che magari rimangono poi in sospeso, niente di più. No, non li sgriderà Beppe Grillo sulla diaria. Vincenzo, intanto potete mandarci i vostri sms 349-238-6666. È vero che non li ha sgridato? No, sembra proprio che invece Grillo... subito twittato, tra l'altro, proprio su questo aspetto della busta paga dei parlamentari. Faremo i nomi di chi si tiene i soldi, ha detto Grillo. Se avete firmato dovete rispettarlo. Fa riferimento al contratto, all'accordo prima che i vari cittadini diventassero parlamentari. Non si fa la cresta su ciò che non è rendicontato, dice Grillo. Il governo poi non regge, aggiunge il leader del Movimento 5 Stelle. L'opinione pubblica sta cambiando, cercano di dimostrare che siamo come gli altri. Queste le parole di Grillo all'Assemblea, e il leader 5 Stelle attacca soprattutto Silvio Berlusconi. In un paese normale sarebbe incenerito, da noi passa per statista, fa dichiarazioni, si propone come padre della patria. E ad attaccare Silvio Berlusconi, il PDL e anche l'ANM costituiscono una pericolosa delegittimazione del ruolo della giurisdizione della nostra democrazia, le reazioni politiche che ci sono state rispetto a singole decisioni, e quanto afferma insomma l'Associazione Nazionale Magistrati, che se la prende con i commenti del PDL alla condanna in appello del processo Mediaset di Silvio Berlusconi. Scusate le papere, oggi è un po' la primavera. Nel frattempo il PDL scende in campo a Brescia, prevista una manifestazione contro i giudici di Milano che, a dire di Berlusconi del PDL, sarebbero ovviamente politicizzati. Questi sono i commenti che non piacciono all'ANM. Tu, Vincenzo, hai sentito del PDL Osvaldo Napoli? Diciamo che è una manifestazione, certamente, dopo che viene dopo la sentenza del Tribunale di Milano, ma è una manifestazione che era già in programma in parte e quindi vuol confermare tutta la solidarietà e l'amicizia che il Popolo della Libertà ha nei confronti del Presidente Berlusconi. Mi pare che sia una cosa più che mai corretta. E conseguenze sul governo, qualcuno si chiede? Ma credo nella maniera più assoluta che non esistono, sono due cose diverse. Cioè che Berlusconi sia un perseguitato, lo sanno persino le pietre, è sufficiente vedere la storia degli ultimi 20 anni nei suoi confronti. Quindi sono due cose, lo stesso Berlusconi con quella lungimiranza ma anche con quella capacità politica che ha dimostrato di avere oggi è sicuramente il numero uno sotto questo aspetto, non mette in dubbio il proseguimento di un'esperienza governativa che deve puntare, come lui stesso ha sempre detto, a rilancio economico del paese, quindi nella maniera più assoluta in questo momento il governo non ha delle ripercussioni rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano. E di fronte ad un'eventuale interdizione un domani, lei che futuro vedrebbe politico per Berlusconi? Beh, non vedo nessuna interdizione nella maniera più assoluta. Ci fosse questo significherebbe sotto un certo aspetto che la democrazia nel paese salta, che gli elettori, che 10 milioni di elettori hanno dato il proprio consenso, perché poi il consenso va a Berlusconi, sarebbero traditi da una volontà politica, perché questo paese subisce anche gli ultimi 20 anni di anti-berlusconismo. Se le opposizioni, in questo caso la sinistra e non soltanto la sinistra, avesse pensato di più a governare il paese anziché pensare soltanto all'anti-berlusconismo fine a se stesso, forse le cose sarebbero andate meglio, mentre invece si è puntato di più a quello che a capire cosa il paese aveva bisogno. E così dunque Osvaldo Napoli del PDL sulla manifestazione del Popolo della Libertà di sabato a Brescia. Un nostro ascoltatore Matteo ci dice se questo era un paese normale, Berlusconi si dimetteva dalla politica. L'ascoltatore è Marco, non Matteo. Intanto Elisabetta, cosa fa il Partito Democratico? Il PD si prepara all'assemblea di sabato che deve scegliere il successore di Bersani. Matteo Renzi fa sapere che non si candida a segretario anche se sarà presente. Tramontano le ipotesi Cuperlo ed Epifani, resta quella di Speranza. Elisabetta. Sì, poi noi abbiamo sentito anche un giovane che per motivi di spazio non possiamo farvi sentire, Matteo Biffoni di Prato, che ci ha detto riguardo alla diaria dei parlamentari PD che loro danno metà della diaria al partito, no, metà del compenso al partito, insomma alla fine tra partito regionale e partito nazionale i vecchi comunisti metà dello stipendio lo ridanno al partito. Finiamo poi con la citazione del capo dello Stato Giorgio Napolitano alla commemorazione per le vittime della strage del terrorismo che cade oggi. Fiori portati a via Caetani dove fu trovato il cadavere di Aldo Moro. Un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.